Santiago, sì, Radio 2, 3, però cacchio, se io riesco a tirare fuori a lui, che io ho qualche cosa in più di lui di potenza, lui mi dovrebbe ascoltare, considerando che c'è un'antenna grande. E certo, il mio concetto è anche questo, se io ascolto una persona, quella persona mi deve ascoltare. Quindi, viceversa, Mari, lui poteva dirmi no, io come si chiama, io ti dico no, non ti ascolto perché sei troppo basso, sei in mezzo al QRM, però cacchio, qua è il contrario, una cosa mai successa, proprio te lo garantisco, ma è successo che a me e penso a nessuno che a Sassari venga ascoltato, uno che ha una buona posizione. Infatti. Comunque ho provato, vabbè, col Midland. E dirò che con quel microfono che ho preso da Fusaro, una bomba. Ma quale Midland sta dicendo? Quello che ha preso da Franco Sorso. Ma cos'è, un veicolare? No, però è stato preso modificato a 12 volts. Ma non l'ho sentito, l'hai già provato? Cappa, ero staccato l'alimentazione però, dovrei riattaccarla. E veramente che esce un casino forte. E ho quel famoso microfono che c'aveva De Carmino che poi l'ha tornato indietro. E praticamente sai quanto l'ho pagato? Non penso più di 40. 40 euro. Infatti. Secondo me quel microfono so di chi era pure. Non lo dico qua in radio, però al 99% so di chi era. Comunque è nuovo, Non lo so che è nuovo, però se tu lo guardi le saldature sono tutte fatte male e più c'è quella specie di alluminio protettivo rigonfiato. Sì, quello è l'adesivo. Ma per 40 euro già si può prendere, dai. Assolutamente sì, infatti ho detto il prezzo suo è 40 euro ed è riuscito a venderlo, infatti Marzia, la figlia di signor Vittorio Fusaro, e bene già me lo vendo lo stesso, poi, ma mi dispiace che gli ha fatto dare 70 euro a Riccardino, dico ma è possibile che tu una cosa, quello gli hanno restituito, perché e so anche di chi è, però non lo posso dire. Capo a me, non mi riguarda chi era. Io dico solo questo, se compro un microfono normale, proprio di quelli andanti, puoi pagare sempre 25 euro, 30, dipende che microfono è. Però per amplificato 40 euro non lo proprio. No, assolutamente no. Poi è un più 5 quello, non è neanche un più 4. Più 5 sì. Oh, va benissimo, ci mancherebbe. Avanti, ma non hai provato però tu a parlare con l'antenna diretta, non ti ho sentito io. C'è qualcuno su 10? Un attimino, stanno parlando. Allora, tu prima di tutto la cosa che devi fare, quella è fondamentale, controllati il cavo EPL sia dell'antenna superiore, attacco dell'antenna, che è quello del baracchino. Io sono sicuro che tu c'hai problemi al cavo, che l'antenna non credo che ci abbia niente. Comunque è entrato doppio rumo, avanti Gianni. Ehi, allora, buonasera a tutti, lo so che ci siamo acceso e poi ho sentito silenzio, quindi sono subito entrato per vedere se c'era qualcuno, ma in effetti forse c'era qualcuno parlando, ma lo sentivo molto basso. KK, adesso che lo sto ascoltando l'ho sentito ma basso, non so chi sia, Robe, dammi delle dritte, dai, perché la verità non ho fatto ascolto, mi sto mettendo le cuffie. Allora, Gianni Capri 2, la Muros, e più c'è anche Tonino qua da Sassari. Ti rilancio a Tonino che poi passerà il mic a Muro. Kappa, ciao Gian, ben ritratto. Avanti Claudio. Cacchio, adesso è arrivato a 9. Ha aumentato e poi diminuito. Allora, sei salito da 7,5 a 9 di colpo. Hai avuto un coso. Ma io non sto pensando che magari c'è qualcosa lagato dentro l'antenna, dove c'è il PL, non lo so, che sta mettendo in corto qualcosa. Che non è possibile che c'è questi sbalzi di segnale. E poi controllati il PL. Che antenna è la tua? Lo controlla bene, secondo me è al 90% il capo. Ok, adesso facciamo riprendere a Gianni. Avanti Gianni. E intanto c'è questo problema, questa antenna vuole scesa e controllata, non capisco. Ciao, buonasera anche a te. Vuole scesa e controllata, magari quando ponga la scesa la alzi anche, e così sei sicuro, magari è entrata acqua, ha qualche problema. Io una volta l'ho scesa l'antenna ed era entrata acqua dentro, infatti l'ho girata, sembrava una fontana, è scesa l'acqua a fiumi. Vabbè, è entrata perché il cavo dovevo fare un giro, qualcuno non me l'ha fatto fare, metto di metterlo dritto il cavo, e invece volevo fare un giro per non fa entrare dentro, si la casa è arrivata l'acqua, esce già dal piede, ti immagino. Non so, purtroppo, ma io non capisco, c'avevi cos'era la malta turbo, quella che avevi Gianni? No, la 5 c'avevi. Non tu Gianni di muro. E io sono passato un piccolo collegamento, così Roberto ti faccio sentire l'altro apparato. Ciao Antonio. Ti ho salutato anche poco fa. Ma io no, però ti sono saltato io adesso. Caffare, bene Roberto. Ho detto, mi fai sentire l'altro apparato. Roger. Ma non è questo? No, sto ancora collegando i fili al trasformatore. E io? Questo è già nel Milan. Sì. Ma sai che sta parlando? Guarda, sono una massa di balurdi, a me me l'ha fatto Tiscali, sono stato 21 giorni senza telefono e alla fine mi hanno dovuto fare il trasferimento di chiamata per collegarmi a un altro cellulare. Ci ha creato tanti di quei problemi con i clienti, tu non hai idea. Purtroppo questi merdosi sono fatti così. Perché mi ha detto anche Riccardino ti stava sempre chiamando e non so cosa ti doveva chiedere, qualcosa. E purtroppo come si chiamano? Probabilmente c'ha problemi di linea. Ok, Tony sei pronto, facci sentire. Comunque a chi interessa il calcio, Inter Napoli 1-1. Cos'hai detto? No. Okay, chi è avanti? Importante. Ma senti dove sta portando? Ehi, c'era qualcuno che ha messo portante quando stavi parlando. Boh, non so se loro l'hanno sentito, ti ha scavalcato. L'avete sentita Gianni? Sì, anche adesso c'è. Passo. No, tu già la passi, però cosa non ce la faceva a passarla? Cosa, Claudio da Mus. Ma non è il padre, non è capito. Sì, vabbè, ho detto Claudio, scusa. No, c'era Claudio prima. Stava parlando Claudio e ha passato il mic al padre. Perché sembrava proprio c'è il padre. Gianni, facci sognare. Io metti questa antenna, non ci vedo. Ma mi fa troppo arrembrano. No, già sta parlando. Ti stai abbassando ancora di segnale, da 8 sei sceso a 7 adesso. Stai attento che non ci siano problemi. Non vuole che bruci l'apparato. Stai molto attento. Avanti Tonino. Ancora non l'ho attaccato, adesso che mantiene da questo e metto l'altro. Eri tutto a fischi Tony. Perché c'ho il preamplificato, il RP3 ha attaccato ancora, siamo ruotato prima, troppo vicino e inizia, capito? Via c'ho le cuffie. Dai, si sa con l'antenna a questo e il suo pizza. Ehi, ok. Gianni da muro, tu stai attento che bruci anche l'apparato, perché se c'hai rientri così forti di rosso è molto coso, pericoloso. Ehi, ok, la prima cosa che fai domani prendi il cavo, lo scendi e se lo lampi, cioè capisci salzare, devo dire buttacelo via. Mettiti un PL ben fatto, saldato bene, controlla la calza che non faccia contatto, perché molte volte uno per la fretta e la disattenzione c'è il rischio che ti freda. Così c'è la certezza che è tutto a posto, te lo misuri magari col tether, nei due capi se c'è continuità e tutto quanto, e vedi se è tutto a posto, e dopodiché ti elimini un problema. Secondo me è il cavo, al 99% è il cavo. Oh Robè, prova Tony. 1, 2, 3, prova di modulazione, dimmi com'è adesso, sto usando quel microfono lì MP5. Ti sei chiaro, però non mi piace la radio. Vabbè, comunque gli altri mi hanno sentito bene a questo qua. Ti hai ringiovanito di 10 anni, Tony, non è reale, sembra c'è una radio equalizzata. E Tony a che modello c'è, a che intensità c'è lì? Adesso lo studio al massimo, aspetta, è regolato così invece. Ma fai una prova, mettili a zero, completamente a zero. Ecco, il tono è a zero adesso. 1, 2, 3, com'è adesso? Adesso è bella, cacchio, questa sì che è una radio, il volume a quanto ce l'ha? A manetta. Adesso va benissimo, Mari, avvicinati un pochettino o non ti spostare dalla direzione del microfono. Adesso la voce è chiara, bella e pulita. Ma amplifica meno, sì? È certo che amplifica, tutto a manetta, sì, radio e Mickey Gain, radio e Mickey Gain del microfono. Ma guarda che tu Mickey Gain non hai. No, ti ascolto perfettamente, cosa dici già? Io glielo ho già detto, gli ho già detto anche di togliere quella parte in metallo che c'ha e di mettergli low watt. Certo, e gliela avvicini un pochettino di più alla capsula, cioè a voi c'è la griglietta davanti, elimini quell'anello in coso, quella piattina rotonda circolare di coso, di alluminio da dietro, dall'interno dove c'è la sede della capsula, togli completamente e ci metti della ovatta, così ti toglie tutti quegli acuti che ci avevi prima. Guarda, lui non ha bisogno manco di modifica perché c'è la voce che gli si addice a quel microfono. Ah, non lo conosco di persona, però è molto naturale con questa modulazione, cioè con quella regolazione. È preciso la voce. Uguale, dai. La tabaria, un pistino, un trentenne, tu ne. Allora la vecchio microfono. Sì, ma è vero, mi molte volte cacchio loco, quando mi si a mettere gli acuti, come me proprio abbiamo avuto una discussione con Fabio avanti ieri a riguardo di questo, di una persona che non si fa nome, però in radio, parliamo radio molto famoso a Sassari, e anche questo tutti quanti, che bella voce, anche gente di fuori che l'ha ascoltato, gente che ascoltava turisti, eccetera, è stato troppo bella, ma perché non fai gli sacchetti tu? Ha detto, ma davvero lo conoscete il cacchio, è tutta manipolata quella voce, piena di filtri, attenuatori, eccetera. Caro. No, comunque, e voi ho dovuto fare un casino, guarda, Robè, perché qua questo mobiletto, niente, devo sistemare con calma, domani lo faccio, così almeno se io devo spostare un maracchino all'altro, non ho tutto questo casino. E sono dovuto mettere le mani sotto, all'interno, aspettare il PL, attaccare, poi c'era, no, ho tutto collegato, non accendeva, cos'era? Si era attaccato il cavo dove c'era il fusibile, una puta che ho dovuto sbucciare di nuovo, però c'è tutta la temperatura qua vicino, che... ecco perché ho perso tempo. Ehi, dimmi una cosa, ma c'hai anche il tunnel tu di microfono? Roger. Non l'hai provato? C'ha connessioni diverse da questo? Sì, le connessioni sono tutte a rovescio. Ma perché magari fai un adattatore, magari per curiosità ti fa un adattatore volante per vedere come esce anche su questo baracchino. Ah, quello domani la posso fare anche la prova. Perché oggi non ha giocato che è il adattatore, No, dico per avere i confronti, sicuramente il tunnel esce molto più naturale, però questa è bella, molto, molto corposa e chiara. E cappa. Andà bene. Sì, comunque ti posso dire una cosa, questo microfono sì, è usato perché noto dove ci sono i toni, Robè. Il potenziometro si muove troppo, mentre il volume no, ve lo saldo. No, lo so, io l'ho visto davvero quel microfono, perché non l'ho portato io a restituirlo, però poi l'ho visto dopo, perché me l'ha portato a me in officina a farlo vedere. La prima cosa che ho detto, guarda che questo potenziometro del volume probabilmente non regola neanche bene, perché se per mettere a zero un microfono ha fatto lo stesso difetto che faceva Riccardino, devi mettere i tuni a zero, probabilmente c'è qualcosa che non quadra. E poi, come si chiama, se tu ti guardi la saldatura dei connettori ti metti le mani in testa. Certo, so di chi era quel microfono. Guarda, io sono proprio vicino al microfono, l'ho messo in posizione, com'è? Bellissima, proprio bella voce, non sono falsi complimenti, te lo sai io, quando non mi piace una cosa lo dico sempre, bella come piace a me, chiara e pulita, non ha, non dico che sia eccellente, però molto buona, c'hai appena appena un po' di acuti, diciamo, che quelli si possono eliminare con quel discorso che ti ha detto Gianni, e per cui la radio è pulita e chiara. Ma poi Claudio aveva risolto con questa antenna. No, ha detto che rimangono in corso, è sceso a 7 il segnale, c'è qualche problema, ha detto sta caduto, ci sta ascoltando però non parla. Ecco. Avanti, doppio, whisky. Ehi, deve decidere, dovrebbe scendere con l'antenna e pulire e fare. No, gli dà sempre problemi. Un giorno glieli dà, un altro giorno glieli dà, ma è sempre così. Secondo me è come piove, che entra acqua, roba del genere. Magari non è vulcanizzata bene, poi l'arrivo si sa che dà problemi. Lui non ce l'ha visto. Sì, ma secondo me già è problema di cavo, assolutamente, al 90% secondo me è cavo, magari è un cavo vecchio, magari è rugginoso, non lo so, ossidato, eccetera, eccetera, secondo me, cioè, perché si arriva di nuovo a 9 di colpo, da 8, quasi 8 a 9, poi è sceso a 7, l'antenna, se c'è umidità non ti fa tutti questi cambi repentini così, anzi, piano piano dovrebbe diminuire, lui l'ha accordata, è riuscito ad accordarla un pochettino, però, non lo so, secondo me c'è qualche cosa nel cavo. No, Robert, guarda il forum sull'arrivo, che cosa dicono? Che ogni volta che piove dà problemi, si riempie di acqua, fa stare le stazionarie, eccetera, eccetera. Non mi sono sui forum. Ma la lingua, quella che c'è, quella specie di bicchiere trasparente, quella lì? Io adesso non sono presente, ma penso che sia quella tipo Mantova, 2 settimane, dai. Toni Laringo, quella che c'ha quel bicchiere trasparente con la carica all'interno, ma sai che chiedo a Capri? Capri, quella col bicchiere trasparente e la carica all'interno, Laringo? Prego. Un attimo. sacca tutto, non trasmettere che stai ancora scendendo il segnale, sei meno di 7 adesso Gianni, blocca tutto, se no c'è il rischio che ti rovini anche l'apparato, eccetera. C'è stato un break, avanti che. Buonasera a tutti, Cristian da questa parte. Sì, ciao Cristian, ben sentito, anche tu c'hai dei cambiamenti di segnale, da 9 a 9 più 10. Vabbè, io sono in macchina. Ah, quello, perché sei sceso poco meno di 9, 9 più 20. In che zona sei? Adesso sono qua dove ci sono i pullman, dai, che via 25 aprile. Via 25 aprile, così? Sì, positivo. Ok, c'è anche Gianni Doppio Rum e Tonino Kawasaki, mentre Gianni da Muro gli abbiamo consigliato di staccare tutto perché sennò fa danno. Avanti Gianni. Non ho capito che sei entrato perché ho ricevuto una telefonata adesso, dai. Avanti l'amico, buonasera, comunque Gianni Doppio Rum. Ciao Gianni, buonasera, Cristian. Ciao Cristian, dove ti trovi? Dove ci sono i pullman, Santa Maria. Ah, in Baramobile, sì? Sì, sì. Kappa, dai. Sì, ti ascolto un bene, dai. Ti ricordi che non riuscivo a sistemare l'antenna? Adesso cazzo l'ho messa a posto. L'ho accorciata un bel po' e le stazionarie sono scese a 1 e 2, mi sembra che era. E c'hai un po' di quei CB camminando, stai? Sì, positivo già. Ah, ecco, perché c'era quel CB. Ci muoveva il segnale, dai. E io ho rimesso di nuovo quello lì, ho rimesso. Quindi, quanti qua lo sistemo tutta la striscia, qua lascio con questo qua. Ciao Cristian, mi ascolti? Positivo, già ti ascolto. Perché io sono fuori Sassari, sono in campagna. No, ti sento forte, va bene. Meglio così. Avanti, Robè. A me Cristian mi ascolta lo stesso, mi immagino, visto che mi ha risposto. Sì, sì, e tu in campagna? Io sono su, verso Piazza Lessini, verso il quadrato. No, mi arrivate tutti abbastanza forte. L'unico che non sento è quel signore che gli ha detto di non spegnere, di spegnere tutto. Vabbè, stava uscendo male, c'ha problemi di coso, di emissione, probabilmente c'è qualche cavo che è in corto o qualcosa, non lo so, perché il segnale ha avuto degli smalti da 9, è sceso adesso poco meno di 7, c'ha le stazionarie altissime, sta accordando, eccetera, meglio che non coso. Se mi stai ascoltando, Gianni, non entrare perché c'è il rischio che ti bruci l'apparato, Gianni da Muro, se parliamo. Dopodiché domani fai come ti ho detto io, buttaci quel cavo, come si chiama, o lo tagli, se è integro, se è un cavo di qualità lo puoi anche tagliare le parti iniziali, controlla che non sia entrata umidità dentro il cavo, perché molte volte capita anche così, si allaga il cavo se è un cavo di scarsa qualità. E a me mi è arrivata la luce sino al giù, sino al piede. Oh Cristian, che antenna hai messo? Ricordamelo. Si chiama la LEM Turbo Mini. Ascolta, ma cosa è bucato la macchina? No, l'antenna mia l'ho messa sotto la capotina e ho attaccato quella. Ah, sotto al cielo l'hai messa, dai, ho capito. Ah, giù da video. E la radio si sente adesso? Sì, si sente. Vabbè, no, non prendono tutti i canali, ma tanto radio non ne ascolto la verità. No, io già l'ascolto. L'ascolto spesso la radio, si dovrà prendere bene, ascolto. Tu perché hai buttato la capota? No, assolutamente, la macchina è nuova, mica la buco la capota. No, volevo sapere se hai ritrovato qualche sistema per metterla diversamente, capito? Cioè, nel senso che qualche staffa, qualche cosa del genere. Ho pensato a... Vabbè. Io l'altro l'avevo bucata, c'è la capota, ma aveva una capota un po' spessa. È stata fatta da una persona che fa impianti, tutte queste cose qua. Mi ha messo la carta gommata attorno al filo per non fare rumore, mi ha fatto un impianto come si deve. Io la verità già me la sto tenendo un po' più a casa, perché anche se l'ho presa, ho accorciato la vista che si vive tutto. Però la guarnizione dell'antenna non aderisce bene, però finora non è entrata acqua e... Dovrei mettere un po' di silicone attorno e poi mettere la guarnizione sotto, così almeno eri sicuro. Lo so, però l'altra volta che avevo le stazionarie, non sapendo che la dovevo accorciare l'antenna, ho detto magari non fa male, allora non gli ho messo nulla. capito, ho fatto contatto per. Sai. Vabbè, tanto la massa la fa sotto, mica sotto. Buono, non so. La fa sotto dove abiti. Scappa, avanti, Roberto. Che macchina c'hai, Cristian? Una grande punta. E l'antenna, me l'hai tolto l'antenna dell'autoradio? Sì, sì, è la parte posteriore. Ho staccato l'antenna della radio, non per quanto sui cieli, e l'ho staccato io. Però me l'ha attacco, l'ha attacco dentro. Spesso mi ha attaccato. Non ho capito, l'ha messo nella parte posteriore l'antenna. La grande punta c'ha l'antenna sulla capota, però non è posteriormente. Ha utilizzato l'attacco di quello, dico. Sì, sì, sì. Perché esistono dei, se uno vuole attaccare l'autoradio, io ne ho uno di quelli, roba vecchia, una scatoletta, che utilizzi l'antenna del baracchino, la puoi utilizzare anche per l'FM, c'ha il cavo da parte, c'è un doppio cavo. Ah, però sai cos'è, che io l'attacco anche, perché sotto casa magari viene trovo finta l'attacco. Che avanti? Ehi, buonasera. Abbascia. Più basso di così per voi. Cata tu veramente sei proprio boom, che sente proprio tutto il rumore, l'amplificazione è un bel. Sono con microfono normale, il Densei, cioè normale, amplificato. Non sto usando questa lettera c'è la Giovanna. Perché si sente questo succhio tutto vru. Lo so, boh. Abbasso. Meglio va. Boh, non ho cambiato niente da parte. Ciao Tomè, sempre scariche, io te l'ho detto qua. Queste scariche che si sentono schiacci, cerca di toglierle. Sì, domani piacerò il microfono, adesso non devo decidere la casa di Giovanna. È già tardi, se no me ne posso portare mio fratello. Capito? Domani mattina scendo e mi prendo di nuovo il salerno e così sono a posto. Te l'hai cambiato il frontalino, Tony? A voglia, è un bonbon, guarda, è perfetto. Quello invece l'ho messo nella busta e qui mi hai dato tu con il frontalino, tu ti pizzi tutto qua dentro, ha cambiato aspetto, c'è dell'Inter che era praticamente, ma con il sabbio io poi. E infatti, appunto è quello, comunque già va bene. No, io ho installato quello del 2009 in quel con il 4000, capito? Adesso devo fare il foro dietro uno di questi giorni in quella palatoria, metterci la regolazione dell'ecco, in modo da poterlo regolare come voglio io, veloce oppure lento. Tony, Antone, così sei perfetto, non so cosa hai toccato, sei perfetto, la radio chiara, nessun di su. Non lo avete ricca, io non so cosa dirti. Oh, perfetto, non toccare niente, o forse te l'attacchi troppo alla bocca, non lo so, schiacci male le cose del PTT. Adesso proprio ti ascolto perfettamente. Vabbè. Dimmi Tony. Che differenza c'è tra questo Tarne a quello di Pia che sta usando? L'altro era un pochettino più ricca di acuti, questa sono belle tutte e due, però forse l'altro, non voglio dire, forse l'altro amplificava un pochettino di più. Vabbè, io sono distante 60 cm buone buone. Allora rimettiti nelle stesse condizioni di prima. Così, come le senti? No, così è meglio, molto più naturale così la voce. Non più whisky. Ah, io ti sento come una volta tu di coltarmi, ti sento bene, ma te bella lo stesso, non c'è niente da dire, però se tu riesci quell'affare di, perché quello lì che ti fa la voce metallica, se te lo riesci, che adesso l'hai eliminato un po' quando l'hai messo in bassi, hai eliminato un po' gli acuti e va molto meglio. Però se tu fai come ti ho detto io, ti togli quel cerchietto di lata, cos'è, e li metti il cotone lì, e li metti la capsula quasi vicina alla vette, non so come esci. Poi se ci porta con la persona là, ci porta con la cosa lì, li metti quella e via. Ecco. Vabbè, per adesso lasciamo così, usiamo questo qua, dai. A me chissà perché mi piace troppo il Tarne, mi piace. Tutto qua, Cristian, avanti. La cosa del più 3, quello nero è Tony. No, quello grigio. No, il Tarne Probabilmente secondo me è il migliore di tutti, dei microfoni, parliamo di cose normali per i baracchini, quello più equilibrato, che non distorce, perché ce ne sono tanti di microfoni, però come sollevi distorcono, come tocchi i toni ti cambia la tonalità, per dire, più alti più ti cambia la tonalità, non è regolare l'amplificazione, per quello non mi piace l'MB più 4 e più 5. Il più 5, vabbè, l'MB più 4 non ha controlli di tono, però come tu sollevi ti cambia le tonalità senza tu cambiare. Break canale 10. Che cosa? C'è stato un break canale 10. Vabbè, avanti break. Buonasera a tutta la ruota, Gianni Lo Profeta on the mic, sono entrato a strappo, non so che ci sia, comunque ritenetevi salutati tutti, avanti. E pensavo Gianni che fossi in terapia intensiva per il coronavirus, sono stato inteso da 2 mesi, cacchio. Antonello Ali Pomponio. Avanti Roberto. Sai, forse ho parlato sopra qualcuno, ho detto che pensavo che fosse in terapia intensiva Gianni Lo Profeta, mi ha sentito Gianni? K positivo, no, buonasera, no, il pidocchio virus a me non si attacca, no, non ci sono problemi, comunque buonasera a tutti, Ari buonasera, e niente dai, no, non ti preoccupare Roberto, no, niente del genere, ok? È solamente che mi serviva un po' di pausa perché mi stavo stancando, dai, ok, avanti. Vai Gianni. Ehi, ciao Lo Profeta, ben risentito dopo tanto tempo. E all'estate ci vuole la pausa, dai, se non te la senti, inutile lì. Ciao Lo Profeta. Avanti Pomponio. Ehi, ciao Gianni, saluto di risentito. E ben entrato, imbarrato, invitato sparisci. Poi rientri, e le donne del centro storico ti stanno facendo a pezzi a te. Che Dio ti ascolti, Ale, io ho una grande unghia, ogni tanto vuol tagliare unghie, devo tagliarla, quindi lascia perdere, dai. Ok Gianni, buonasera, grazie Tonino, salutone anche a voi, dai. Non so, dai, fate girare, dai. Comunque rilancio la palla a Roberto, avanti. Infatti è troppo strano l'apparecchio che non sente, naturalmente era una battuta, l'ironia capisci, non ci sono problemi. Vabbè, infatti era molto assiduo Gianni, ho detto stranamente da un po' che non l'ho sentito, ma molti adesso stanno notando che non stanno entrando come prima, addirittura c'è qualcuno che proprio è morto, non esiste più, non l'ho più sentito. Riccardino mi ha avvisato, mi ha detto che da oggi sino a domani sera è l'Argentina in corso, in campeggio. Si fa il fine settimana. Anche se oggi la giudizio tappa di bene che c'è un po' di freschetto, domani già è buono, discreto, dai, non buono, discreto. Ecco perché non abbiamo sentito. Ehi, ce l'ha comunque la parata del camper, se non mi ricordo male, così per l'Argentina dovrebbe arrivare abbastanza bene se lui in zona alta. Lo sai quanti ne ha nel campo dei baracchini? 3. Figurati, e quindi già ben armato di camper, di baracchini. Ha voglia. Ti manca solo il lineare che è piccolino, da 100 watt è a posto. Sì, sicuramente. Ma te perché te ne stai portando? Ne ha uno in gabbina, uno nella cellula e poi un altro di ricambio. Te ne vai? Non si sa mai, perché se ne rompe uno c'ho l'altro. Poi catta l'anima. Fa bene, fa bene. Io ne sto usando uno solo qua adesso. Gli altri lato ce l'ho giù. Il Conex 4000, la Giovanna, che lo usa lì. E poi c'ho l'apparato grande, il portatile e quella specie di cicafuso che ho comprato a 98 euro. Ho fatto la modifica del watt, mi dà 6 watt e mezzo, mi dà. E quindi già esce adesso. Ma adesso sei perfetto Antonello, non tocca nulla, lascia stare che sei eccellente come modulazione, vabbè, segnale, non niente da dire, forte e chiara la modulazione, non toccare niente, va benissimo. Antonello. Fermo, sono bloccato come se fossi ingessato, dimmi Tony. Ma l'altro giorno stai dicendo, se uso Giovanna, e io Giovanna non ho mai dice in frequenza. Perché sta sventiare con mio fratello, i bambini eccetera eccetera, capito? Poi vabbè, adesso a settembre dovrebbe essere un po' in pausa, perché a quanto sembra il pizzicotto mi pare che a settembre chiude, quindi già lo sentirai di nuovo, barattina, ho capito. Non c'è più la clientela di una volta, capito? E quindi prima era più libera, adesso vabbè, adesso sta lavorando meglio così, finché ce l'è va bene, dopodiché c'è la vivenda poi. Cioè praticamente chiude il locale. Beh, non ce la fanno, ma io lo sapevo, è inutile che lui apra così come vuole lui. La gente ormai non ci va più a mangiarsi le pizze e cose del genere, deve stare un metro di distanza uno dall'altro, ma ui. Per quello guarda, era meglio che si metteva i tavolini fuori qua, per strada. Ma scusa se interrompo, Antonio lavora al pizzicotto la tua sorella? Ehi. Io ci vado spesso al pizzicotto, ma stavo parlando di punti. Quello lì, quello di punti, esatto. Ma l'altro era il figlio, quello che c'è a Sant'Orsola. Anzi, il figlio e la figlia. E lei dove, ma come cameriera lavora? No, lavora a piatti. E lì ci lavora anche un ragazzo che allenavo io, Antonio, come si chiama? Antonio, quello che c'è lì, lo conosce? Sì, già lo conosco. Poi c'è Giovanni il cuoco, tu se mi sembra, Antonio mi pare faccia il pizzaiolo, adesso non mi ricordo. No, Antonio fa il cameriere, quel ragazzo, un buon ragazzo, dai, con gli occhi celesti, c'ha l'età di mia figlia, anzi forse sì, 97, come mia figlia, perché hanno giocato insieme, Antonio Chessa si chiama. Positivo, c'è lui, già lo conosco. Allora Franco, il padrone, è uno di quei pizzaioli storici, lui, Bruno e Belluno, erano i tre pizzaioli storici di Sassari, che hanno iniziato al Gallo d'Oro, ai tempi che furono, quando ero bambino io, che non esistevano ancora, e sono proprio i più bravi pizzaioli in assoluto. Infatti io il sabato, adesso sono un po' non ci vado, dopo c'è stata questa sera, ma tutti i sabati andavo da lui a mangiare la pizza, quando c'è lui, perché gli altri giorni non c'è lui, per cui non è un granché. C'è Monica, c'è. Ma la tipa, quella straniera, che cos'è, la moglie? Ehi, è la seconda. C'è un po' di anni quella donna, io la conoscerò 25 anni. Io l'ho conosciuta anche prima di essere a pizzicotto, figurati tu. No, ma sono buone le pizze. Ok, vediamo se Cristian c'è ancora, poi riprenderà Gianni Doppio Rum che farà girare a Tonino. Cristian, ci sei? Non ho capito dove sei però. Vai Gianni. No, ti ascolto sempre bene. Tu mi ascolti bene, Cristian? Sì che ti ho sentito, Cristian. Che ti abbia sentito, Dove sei diretta? Dottore. No, l'ho sentito a Cristian, come no? Non c'è problema. Ho detto che ti ho sentito, Cristian. Io ci devo andare. Ne ho voglia anche io, sono 2 anni che non ci vado a pescare, no? Ho sempre pescato, adesso prima andavo sempre tutte le notti, piazza andavo, la sera sino alle 11, dalle 8 alle 11 andavo sempre, a me mi conoscevano tutti al molo, in spiaggia, da tutte le parti. Io ci spendevo un bel di soldi, specialmente in esca, perché compravo americani, bibi, insomma, e costano una barchetta di soldi per la roba. E prendi qualcosa a calamare? Ah, li peschi, e magari dove è freddo li bidi, non adesso ancora non ce n'è. E calamari escono, più freddo c'è e più, non se lo devi andare a calamare, te lo dico io. Sotto la chiesa di Bala è vicino, provo ad andare lì e dopo vedo la risposta, però d'inverno. Io ci ho lavorato a Portatore, se 38 anni, e poi a pescare non si veniva vita, andavo sempre. Sapevo posti di seppie, di calamari, di tutto, però più di seppie che di calamari. Quello lo so, che bussano i burumbè. Lo so. Io avevo un amico che faceva pesca su macchina, si faceva ricco con le tottanane che trovava. lo so. Sì, dietro il muraglione, anche lì andavo anche dietro quel muraglione che c'è al Molo Asi, dove ci sono le luci dietro, dove ci sono le scalette per salire sul muretto. un po' di anni fa, dai, ci andavo. Poi io ho preso il vizio di non scendere più a Portatore, di andare a Frattamona e fare surf casting, e andavo dove c'aveva la casa Roberto, più o meno, dai, della rete che divide infatti il presidio militare non la rete, il muletto, che divide il presidio militare dall'altra zona della torretta. Andavo lì, preso anche dei bepizzi. No, forse non ero io. Io il cannolicchio lo innesco in questa maniera, lo metto dentro l'ago, lo faccio scorrere come il verme e poi lo leggo col fine elastico. Ma pure con la buccia. Quando pesco senza la buccia così, se no anche con la buccia con due aghi, li allargo appena appena, li infilo gli aghi. Ehi, ci vogliono le starlight, perché io sto di notte anche, sino alle 11:30, scusate se stiamo monopolizzando, ma è una passione che c'è anche il Tonino, quindi adesso devo andarci a Tonino, dai, va avanti il Tonino. Già lo sai, quando vuoi, ci andiamo a fare due tiri di pesca, o già, non c'è problema, avanti Roberto. No, la pesca subacquea a me piace, anche se non ci sto più andando, però ci ho fatto tanti anni, pesca a canna non mi attira. Non ho pazienza, amico, la barca a prendere pulpisi, calamari, ma andare a fare pesca a Gussia, a Lampadù, in spiaggia, ore e ore, no, non fa per me. Io preferisco andare al posto che prendi, sei sicuro che prendi, o almeno vederlo il pesce con la pesca subacquea, ti fa l'immersione, te lo guardi il pesce, anche senza fucile, te lo guardi e ti diverti. A stare ore buttato così a prendere freddo non mi piace. No, guardi, io faccio la pesca miracolosa in Europa. Io metto la cesta là, sul ruolo, sulle rocce, e il pesce salta, lo do solo dentro la cesta. Ah, se no io vado al mercato e mi rubiglio forse un brivido. Anche se è vero, anche la bulla di la poesia. Dimmi già. Io l'ho fatta per tanti anni la pesca subacquea, ma io ne faccio tutti i due, a me mi rilassa molto. Dipende come la prendi, Io per dire, dopo una giornata stressante di lavoro, per andare a pescare scaricavo, capito? Mi rilassavo, poi ho fatto molte amicizie perché sono molto socievole, quindi faccio amicizia con tutti, li conoscevano tutti, sia in spiaggia, sia a Porto Torre, sia da tutte le parti. Sì, no, sicuramente come valvola di sfogo va benissimo, però io ho poca pazienza. Le poche volte che andavamo a Mare di Furi, quando andavi fuori di Capocaccia, così così, sapevi dove c'era la secca, buttavi e tiravi, se ne prendevi a ceste di pesce, così è divertente, ma stare in spiaggia, guardando la pesca, io siccome so, la conosco tutta troppo bene quella zona lì, che ci sono nato e vissuto, e so cosa c'è e cosa non c'è, ho visto la gente, ore e ore, lampade, dice non c'è niente. C'è stato il periodo delle orate 30 anni fa, sì, che c'era quel passaggio e tutti hanno pescato, però raramente si prende qualcosa di lì. Vabbè, non è vero, io lo conosco lo stesso, io vado in quel punto vicino al muretto che rimane tra la sabbia e la roccia, è praticamente una roccia piatta dove non incadi, quindi va benissimo. Io ho preso di tutto lì, ho preso latte, anche grandi, ne ho preso una da 3,850 kg. E c'era tutta la gente che stava passeggiando, per intenderci, quando l'ho portato fuori. Ho preso un bel irrate, ho preso mormoroni grossi di notte, dipende a che ora vai, io andavo dalle 8, sino alle 11:30, mezzanotte, dai. Sei avanti, se c'è qualcuno che chiama, avanti. Attento collega, dipartimento 165 al nord della Sardegna che ti supercordializza, avanti. A Tenerife ti ascolto, ti escucio al 100%. E l'isola della Sardegna, Italia. La città è Sassari, l'operatore Gianni Doppio Rum, avanti. Capo Antonio, ho ben sentito, dai, dalle Tenerife. Ti passo Albermani, avanti. Roberto, poi fai girare. Sì, buonasera dal compagno qua, città di Sassari, operatore Roberto, QSL. Ti rilancio il compagno Tonino, adelante Tonino. K, mio hermano, 7351 Paratecora Familiare. Arrivo Lucia Piano Mia Sassone, con Santiago di 7 e il marato di 4. Ok, my friend, mio hermano, burciaccio. Mi ascolti, Tochigno come Tango Oscar, novembre India, novembre Oscar. Adelante Antonio, a me non mi intendi. No, adesso non lo sento neanche io. Tochigno è bello, mi piace questo nome. Il cos'era, Ghidù, che cantava quella canzone Acquarello, ve lo ricordate? Non lo ricordo. No, che la bassona ha detto che Romano l'hanno torchino. Attento mio Romano delle Tenerife, c'è Vasco Siamo operatore Gianni Delta Romero della città di Sassari che ti supercorrializza. Aspetta che però. Sta parlando, aspetta. Mi dai il segnalito Santiago del Radio, tu stai arrivando a Santiago del 3-4 e la radio del 3 avanti. Attento mio hermano, copia dai striscio, Storino Kawasaki, cosa hai detto? Che ti copia, QSL. Ok, QSL, mi armiano del Spanaco, Tenerife, al 100% Santiago de 7 e la radio de Quinto. Sì, che c'è anche l'amico che stava un po' tortoso, non ricordo come si chiama. Cristian, dove sei? Cristian, ci sei? Già arrivato a casa sua, non lì. Ma perché Cristian ha portato l'esabito? A pescare sta andando. Ma a me sembra di conoscerlo, io l'ho parlato qualche volta, mi aveva detto che mi ci conoscevamo, adesso non mi ricordo dove, cosa fa o dove abita, buh. Non lo so, comunque stavano a pescare. Oh già, oh. Comunque me l'ha confermato Capri 2, dice tu veramente mi hai fregato. Oh, c'è anche Antonello, mi ci siamo dimenticati, vai Antonello. Poi. Vi frega la memoria breve a voi. Poi. Aspetta che richiamiamo l'amico di Tenerife, attenzione Antonio da Tenerife, se scucci l'Italia che va chiamando, adelante. Oggi c'è il QRM, stranamente se c'è la propagazione così basso mai, a 4, questa arrivava a 5, 6, qualche passaggio anche più forte, e ci ha tirato un fuori, dai, strano, o c'è un nome di potenza o qualche direttiva questo, perché non ce ne sono altri in propagazione. Per questo questa antenna è bella, non prende il QRM. E qua anche 7,7 è fatto. Va bene, però poi molto come se mi e poi se ne scendeva. Comunque Tocchigno, non ve lo ricordate il cantante che suonava con la chitarra e faceva quella canzone Acquerello? Cercatelo su internet, una canzone che aveva vinto in Bari anche il Festival Bar o qualcosa del genere. E cantacela tu così, ce la ricordiamo. Non me la ricordo la cosa, ma è un bel famoso, cerca su internet Acquerello Tocchigno. Me lo sto scherzando, veramente. Vabbè, adesso non mi viene il discorso. Tu hai detto Tocchigno come diminutivo di Tonigno, perché dovrebbe essere Tonigno in coso, in spagnolo, dai, in portoghese. Mi sta per scappare la vita, sto per dire col cuore è sparato. Ah, così è. Però c'è una pernacchietta, prova a parlare del Tonigno. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non parlare, manda solo portando. No, tutto a posto, non mi metterà qualche disturbetto, niente di importante. Ok, vediamo se Cristian c'è ancora avanti. Cristian, spero che ha dato le canne ormai. Ho sentito uno basso, non so se sia lui perché non ho capito cosa si stava dicendo. E Gianni dovrebbe ascoltarla meglio di tutti. Avanti Gianni. Ma te la metti Tony questa canzone? Non l'ho sentita tutta. Fagliela sentire già. Sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due titi là sotto saranno brillanti. Non mi ricordo che la cantava. Tocchigno la cantava, Acquerello. Io sono ancora qua, me. Che non dici niente tu, Luzan Tuddu. Scusami tanto già, proprio ho dimenticato. Avanti a te, perché non hai fatto il collegamento pure tu? Ah, vabbè, la colpa era mia adesso. Vabbè, non ci sono problemi. Cosa volevo dire? Mi ascoltate bene? Benissimo. A posto. Io ho proprio dimenticato, ma adesso, però il capomaglia è Roberto, è quello che sta facendo girare la ruota, quindi dovrà essere lui a farti girare. E si è dimenticato anche lui. Se non sbaglio ho sentito il piribibibi di Guidoncino. Tu Tocchigno l'hai conosciuto Gianni Rubroffe? A voglia. Stai sfondando, e come senti la gamba tesa con Seo. appunto dico, perché sembrava, io pensavo fosse una persona molto conosciuta qua in ambito musicale, invece boh, Gianni già l'ha cercato e l'ha fatto riconoscere, ma io diciamo di musica un pochettino qualche cantante già me lo ricordo, dai. Parliamo dagli anni 70 in poi, adesso gli ultimi non me ne ha fatti nulla, però sino agli anni, fine anni 90 c'ho una buona memoria musicale. Pure lei. A me non per vantarmi, mi basta una mezza frazione di nota, un rumore pink e ti dico la canzone, se l'ho già ascoltata. No, vabbè, quello lì si sei più perfetto di me, allora qualche luna non la riconosco subito, però le prime notte magari non me le ricordo, però poi quando la sento me la ricordo. No, no, non so se sia una virtù o un difetto, perché io ho un'ottima memoria numerica, ma assolutamente negativa memoria visiva. Io faccio brutte figure impossibili, ma brutte figure a vero me anche in officina, perché mi dimentico le facce. Proprio dico, ma chi se ne è venuto uno da poco in officina? Ciao Roberto, mi guarda, ma non mi riconosce, no, no, come ti chiami? Come vai? Tal cosa? Ah, ciao, scusami, ah, proprio figura di me. Però ti posso raccontare di numeri, di cose, di cose, nei numeri di telefono, partite IVA, codici fiscali, ne ho centinaia a memoria, però non mi di ricordarmi le facce, faccio figuracce. Però la musica, io sento uno squillo di canzone, la prima nota tac e te la indovino, sempre che l'abbia ascoltata almeno una volta. Perché tu adesso hai la memoria in ufficio e ti ricordi tutti quei numeri, tutto quello che vieni, capito? Hai memorizzato le cose. L'ufficio sta sempre facendo numeri e questo e quell'altro facendo conti, alla fine poi per forza quei numeri acquistano un certo feeling. No, no, ma probabilmente utilizzo una parte del cervello di più dell'altra, perché quello che c'ho in più come memoria numerica ce l'ho in meno di memoria. Infatti molte volte dico, ma cosa mi ha fottuto di ricordarmi? Per dire mio fratello, cioè, dammi, cercami il numero per dire di un negozio, e glielo dico a memoria, e poi mi dico, ma che cazzo, come ho fatto a memorizzarlo? Per dire, non è che l'abbia chiamato, oppure codici fiscali di tutta la famiglia, di parenti, di coso, partite IVA sono anche lunghette di coso, numeri per dire di il pi greco, che ci sono gli ultimi sei numeri decimali, mi ricordo cose inutili che non servono a niente, anche io rimango molte volte, dico speriamo che non mi vada la saturazione del cervello. Anche i numeri IVA ti ricordo. I numeri IVA. Ehi, adesso dicendo, ma non per vantarmi, perché non so, ti ripeto, da una parte registro un bel cervello e dall'altra parte zero, perché le facce ho figure di merda, te lo ripeto, però i numeri sono un'ottima memoria. È venuta una signora ieri in officina, 87 anni, tu devi vedere questa signora, una memoria, infatti le ho fatto complimenti, signora, mi ha detto indirizzo, nome, numero di telefono, tutto a memoria, codice fiscale, sì, e mi ha detto a memoria, ho detto complimenti signora, 87 anni aveva. Ma mente allenata. Io con mia moglie era così, si ricordava tutti i numeri di telefono, i numeri dei codici fiscali, tutto quanto, tutte queste cose qua. Io di meno. Io me lo ricordo, MRL, GNN, I 452, anche mio mi ricordo. Ok, facciamo riprendere di nuovo a Gianni a Rubraffetta. Tu è stato speaker in radio, non è così Gianni? Eia. No, vabbè, voi state parlando di attitudini assolutamente naturali che uno ha, cioè sono delle predisposizioni. Io ho una memoria fotografica, ho immagini impresse di molte facce, però magari ho difficoltà per associare i nomi, perché poi più si diventa grandi più le informazioni aumentano, quindi di conseguenza aumenta la confusione. Però ho molto sviluppata la memoria fotografica, per cui magari vedo un determinato dettaglio particolare e lo memorizzo subito. No, io quello no, il particolare no. Io le voci, per dire, vengo in un'officina anche al telefono, dalla voce, cioè lo conosco dalla voce, di persone, ma non persone che frequento. Mi ha chiamato l'altro giorno una signora, l'ho riconosciuto dalla voce, gli ho detto, senza dirmi il nome. Cioè, c'ho una memoria di coso, però non visiva, di numeri e di suoni, c'ho un'ottima memoria. A me sai cosa succede? Siccome avendo lavorato 38 anni a Porto Torres, conosco tantissima gente. Molte volte la gente mi saluta a Sassari, non capisco se è gente che ho conosciuto a Sassari o se l'ho conosciuta a Porto Torres. No, io faccio figure brutte figure, ma sono di gente, molte volte mi salutano, ma col discorso del lavoro mio e dello sport centinaia e centinaia di persone mi salutano, bibi, e beh robe, e boh, mia figlia fa, ma mica ti assolutamente, e dai, boh, non lo so. Ma io sono stato con delle persone parlando 10 minuti, non un minuto, 10 minuti raccontando, diciamo gare ghizzo, e poi alla fine era uno che lavorava in officina da me. lo so. Succede, a me è successo una volta questa ragazza che è venuta, mi ha abbracciato, ha dato i bacini, eccetera, eccetera, io guarda, vabbè, non ho avuto il coraggio di dirgli ma chi sei, non ti riconosco, perché se no ci rimaneva troppo male. Era tutto entusiasta di avermi visto, questo e quell'altro, io non mi ricordavo chi fosse. Ah, però mi capita molto spesso, a me, molte volte, infatti poi chiedo a mio fratello, ma dai, non ti ricordo, io buh. E poi quando mi dice il nome, sì, nome, cognome, di tutto mi ricordo, però se non mi dici chi è, faccio figure proprio allucinanti. Ok, vai Torino, avanti a te il mic. Ok, sì, molte volte capita anche a me, mi salutano. Buongiorno, buonasera, ciao, e io sempre ciao, e tu tra me magari tu, io per educazione sempre saluto il sorrisino, tutto quanto, ma poi in realtà ci penso magari. E vabbè, ragazzi, le 23.15 io me guardo un po' di TV e poi la nanna, semmai ci sentiamo domani che domenica. Vi saluto tutti quanti, ciao Gianni, ciao Doppio Dun, ciao Roberto, eventuali amici in ascolto, qualcuno è saltato già nanna. Volevo andare un po' in TV, dai, ci sentiamo, che domani mi ritorno sulla stazione, c'è un casino qua, dai. Va bene, riprendi Roberto e fai girare, buonanotte a tutti. Ciao Tonino, ben sentito, buon correttivo, buon riposo e buona giornata per domani. Vai Gianni, Rubrofetta e poi Gianni Doppio Ru. Ciao Tonino, buona noche, visto che eravamo in tema spagnoleggiante, dai. A risentirci alle prossime occasioni, dai. Vabbè, un consiglio, cerca di guardare meno in televisione, magari. Comunque. Ok, buonanotte, alle prossime, avanti già. Ciao Tony, buona continuazione, non ti coarti, ciao, ci sentiamo, avanti Roberto. Ok, dimmi una cosa, ma tu facevi, Gianni Rubrofetta, un programma dedicato tu in radio, cosa facevi, musica disco o ho parlato? No, vabbè, a Radio Luna c'avevo, avevo uno spazio dove facevo il parlato. Radio Venere facevo la regia, ma facevo i non stop. Ogni tanto con Valerio facevamo qualcosa a due, ma poca roba lì. Però a Radio Luna c'avevo il mio spazio, credo che fosse dalle, non mi ricordo se era dalle 4 alle 5 e mezza o dalle 4 e mezza alle 6, dal lunedì al venerdì. Questo è quello che mi ricordo. Radio Luna dove era? C'è stato un periodo breve, dove trasmetteva? Era dentro una stanza dove c'era Radio Venere, Postiglione aveva una frequenza e aveva tirato su con materiale di recupero, aveva acceso un'altra frequenza e da lì era nata Radio Luna. C'è stato poco, infatti me lo ricordo un po' vagamente. Trasmetteva dalla stessa posizione, la stessa postazione. Sì, sì, vabbè, c'era la cosa era Monte Oro, perché sul tetto c'era l'impianto di radiazione di Radio Venere, e quindi non si poteva fare. E quindi c'era il link che mandava il segnale a Monte Oro. Trasferimento, quindi c'aveva qua la sede in Via Grancia, da lì andava in coso, come si chiama, ripetizione da Monte Oro, in diretta. Tu a Steffi l'hai conosciuta già? Non ti ho capito già, dimmi. Steffi, quella che faceva musica discoteca, eccetera, eccetera, l'hai conosciuta? Boh, di che anni stiamo parlando? Un po' di anni addietro, io avevo 19 anni, c'era Lorena, allora Tiziana, Steffi. Guarda, io lì sono entrato, non mi ricordo se era 84 o 85, quindi non mi ricordo quel nome, non mi dice niente per adesso. E Lorena e Tiziana te li ricordi, sono le figlie di Postiglione, te le ricordi? Sì, quelle sì. Quelle sì. No, ma questa Stefania, Steffi, o come ti si chiama, che so, mi è venuta in mente un'altra persona, ma non c'entra nulla. Guarda, che l'introduzione del suo programma era IMC. Sì, vabbè. Ho capito. No, ma non mi dice niente. Non mi rievoca nessun ricordo per adesso, non, ti ripeto, è proprio buio. Caffè, vabbè, dai. Tempi passati. Ma tu l'hai conosciuto a cosa? Gianni, lo profeta Alex, che ha lavorato poco, Giuseppe Idile, in parole povere, che adesso si fa chiamare capitano. Azzarola, vedi, torniamo al discorso di prima. Ho la memoria visiva molto sviluppata, però anche io conosco un bel po' di gente, quindi mi si incasinano, inizio a fare mischioni e probabilmente sì, è che adesso magari ho qualche difficoltà a fare veramente a mettere a fuoco, dai. È Marco Sound, The Power DJ. A voglia. Quello no, con Marco, figurati. Adesso sono un po' che l'ultima volta che l'ho visto è triplicato il suo peso. Adesso da qualche annetto, dai, che non ci vediamo. No, con Marco già ci conosciamo da un bel po', dai. Lo sai che gli ha fatto lo stacchetto? Vi siete parlati sopra. Chi ha fatto lo stacchetto? Marco Sano International e Power DJ. Boh, avanti mi lamento. Non me lo ricordo. Non c'entra niente con Radio Venere. Ha lavorato un periodo, ci aveva una voce spettacolare, proprio una delle più belle voci radiofoniche che abbia mai sentito qua in radio a Sassari, per non dire la più bella. Donato Ala, non so se lo conosci. Negativo. Magari se sento la voce me la ricordo, però associare quel nome a... non lo so, ti ripeto, sempre come l'esempio di poco fa, devo, sai, poi ti viene, hai una piglia e quindi fai associazione. Ho sentito, ogni tanto mi ricordo qualche voce bella degli anni che furono, ma c'erano delle belle voci in giro, dai, sia maschili che femminili, e niente, dai, però associare il nome adesso mi viene un po' male. Guarda, Gianni che dal Monte, sicuramente la voce più sensuale in assoluto della radio era Simona di Radio Holiday. Simona, sì, me la ricordo. Io ascoltavo anche molto Radio Giovane la notte, specialmente quando c'era il salotto. Radio Giovane era numero uno, gli altri poi sono tutte venute dopo come professionalità. Simona era una, diciamo, non diciamo in particolare, ma era una donna, l'ho conosciuta di persona, ma bella, proprio una bellissima donna. Poi c'aveva questa voce e faceva lo stocchetto di Radio Holiday. Ciao, lo sai che sono tua, sono la tua radio, ma con una voce sensuale in diretta, l'ha registrata lì e battevano gli sacchetti della radio, ma una cosa, mamma mia quanto era bello quello sacchetto. Radio Holiday, la tua radio. Al di là di, ci sono andato tante volte perché ci lavorava mio cugino, tantissime volte ci sono andato. E cosa volevo dire? No, Radio Giovane, quando è nata la radio, diciamo, le albure della radio, Radio Giovane era numero uno, poi gli altri piano piano si sono affiancati e l'hanno quasi raggiunta, ma all'epoca, parliamo inizi degli anni 70, 78, diciamo, quando proprio stava iniziando la radio, non c'era per nessuno, è stata la prima radio con gli stacchetti prodotti da fuori, le pubblicità prodotte da fuori, poi gli altri erano ancora con gli stacchetti tutti fatti da loro, molto arrangiate. Era una grandissima radio, poi c'erano dei bravi speaker, c'era gente veramente competente e brava, c'erano tutti, li ho conosciuti, dai, da l'uno, il numero uno, il più bravo, il più preparato, e quello era una memoria musicale da paura, era Leonardo Casula, che faceva tutte le vocine, proprio stile americano, quei DJ che parlano con le vocine, si metteva per dire lo sacchiotto che faceva il verso, la trombetta, cioè tipo Good Morning Vietnam, ricordate quel film con Robbie Williams, chi l'ha visto? Ce n'erano tanto di radio che ascoltavo, perché sai cosa facevo io? Partecipavo ai concorsi che facevo, io sono andato a Radio Uli, ci ho anche parlato a Radio Uli, Radio Venere, Radio Giovane, se la roba che ho vinto io, la Baggi gratis per le macchine, la torta, a Radio Uli ho vinto una torta, messa in cosa da una pasticceria. E c'erano questi giochi che io partecipavo e mi divertivo. Sì, prima poi c'era tutta questa cosa, no, la radio era bella prima, c'era molta familiarità, poi ascoltavi pure le stesse telefonate, c'era sempre la stessa cosa, le persone molto affezionate, voglio dedicare la canzone a tutti quelli che mi conoscono, la dedico alla mia fidanzata, la dedico alla greffa del muretto di non so che cosa, no, c'era il periodo, se ricordi a Maurizio, due chiacchiere e un caffè, che poi faceva quel programma, lui si chiamava Franco Pustiglione, a Radio Venere, ma c'aveva quelle ascoltatrici che c'erano innamorate di lui, lo telefonavano, cacchio, sempre le stesse. Maurizio Pustiglione, si chiama Maurizio? Franco. Comunque c'era Gabriuccio il maestro, ve lo ricordate? Il maestro? Gabriuccio il maestro era un ascoltatore di quelli proprio accaniti che telefonava ogni sera a Radio Udine, a Salotto di Radio Udine. Poi c'era anche la moglie di Pustiglione che faceva il programma, non mi ricordo come si chiamava Gianni, la moglie Gianni.